ultimi degli italiani. Gli ultimi degli italiani. Gli ultimi. E siamo gli ultimi degli italiani. Scagliano la prima pietra, poi nascondono entrambe le mani. Sono così autocelebrativo da poter aprire una concessionaria. Sì, ma sono così tanto autocelebrativo che se mi gira posso anche permettermi di fare gli scratch con la bocca. Scratch con la bocca. Hi, my name is Shaka Bro Show. I killed the dragon. I'm anti-fartly. Okay, see, Vabbè, sfilo da rettiliano, cappellino da benzinaio. In arte primo su un centinaio. Riconosci il suono come il gelataio. Bambini ci sono, prendete il salvadanaio. Pompo la mia popò in senso orario, stercolario nelle cose che fo come un certo Dario. E questo è il guaio. Solo cagate, le feci e le farò. Non cesso, sono un poeta vater. Atleta karateka, campione di sumo. Paperone, mi segrega nella teca. Numero uno, in esubero puro. Te cai, penso che fai una rap fight versus Jack 5. E dai, se mi insisti sfoderò versi versatili. Così fitti che ci trovi Pokémon selvatici. Come no, provateci. Ho i passi di Banshee, così fertile che se ti prendo a schiaffi ti asconi i baffi. Scratch con la bocca. Scratch con la bocca. Scratch con la bocca. Hi, my name is Shaka Bro Show. I killed the dragon. Rime che ti porto avanti. Io mi faccio largo tra i passanti. Come una cinta o come una donna incinta. E ad ogni spinta del pupo io mi nutro di grinta. Cinta da una sindrome fina che nell'indole. Non ho stridule, voci sicule che mi invitano ad uccidere. Fallo fuori. Chiedo spazio come Sputnik. Però tu puti meno. Mi scanso ma mi sputi in pieno. Alzo un putiferio. Scusa ma i song nuts più di Putin. Serio, temo che il demone mi rende ragionevole. Mi senta cagionevole, sono un saggio debole. Fragile, tecnica dannata dannata. Memorabile, come l'unica chiavata del Papa. In strada fanno i ragazzi della via Pal. Chi si cala al marmo, ragazzi della via Cal. Via Dal, non mi avvicino al gradasso. Con uno stile San Martino del Carso. Scratch con la bocca. Scratch con la bocca. Scratch con la bocca. Hi, my name is Shaka Bro Show. I killed the dragon. Deforme. Sto nell'armadio di Adam Cadmon in quanto vanto. Scheletro di palladio, adamantio, e intanto canto. Uno, per chi si diverte. Due, per show. Tre, ci mette sul comò. La classe non è acqua ma è H2O. Perché per me è doppia H. E io ce l'ho, SHO. Senza doppia V di vittoria. E se manca ho ancora più voglia della gloria. Parlo calmo, fingo, fango fatto fitto. Scritto squarto tanto tinto. Spicco spacco in un lampo limpo. Ballo sciallo, pinco, panco, panco, pinco. Cinco stanco.